stesse parole spezzate in un'agonia senza più tentativi di conforto. Sarei vivo dentro il morto, mentre inerte la tematica ti mentirete di problemi. Figuriamoci se potessi capire il sistema lessicale. Ti mancano molti per di perlustrazione, per lo più un problema sull'azione. Quando sei davanti alle mente, batte dei punti sempre. Uno scalatore che monta su monti, montaggi scenografici, mondi giù, bebè con la febbre, ti sfigo. Io testa sul libro, tu testa di pube, su cubi, perdi il pelo, tudi. E ti è andata come il primo da Peppocelli, pronta a chiedere aiuti. Ma te eri gelata, testa infatuata, la roba scaduta, la ruba pupa, siamo la papa, papà e la papa che ancora devi mangiare. Universitario di mira techero, perché se non fosse stato per te questo manco c'ero. Incamminato in un sentiero, incontrato, baciato, serpente nero, pisciato nel vaso d'avorio ed è collato il tuo impero. Cavaliere di sta tavola bislunga, per un'estate vista triste, un pinguino dell'onchi che rinfresca. Fu la spedizione della cicogna che fece battere la tua testa. Ove il tuo corpo da porco, fanciulletto, già con acque sporche. Ma è possibile per uno che non ne fa parte, per uno che è nato in uno stato beato. Sempre cercato la copia di uno sconosciuto, senza aver mai capito, copiato. Suona il tui, alla bocca di tutti gira la parola B-boy che vi accumula. Un tutt'uno di uguaglianza, altezza da bozzai. Braccio di ferro senza spinaggi, si mise nei guai. La cultura che segue me ora mi sai. Mi sento che non fatti uscire, attimi di luce prima di partire. Bande che non vogliono lasciarci andare, scappare dalle menti prima di impazzire. Bisogno di gente che non fatti uscire, attimi di luce prima di partire. Bande che non vogliono lasciarci andare, scappare dalle menti prima di impazzire. Bisogno di un panda suicida, bisogno di un panda suicida, bisogno di un panda suicida, bisogno di un panda suicida, bisogno di un panda suicida, di un panda suicida. C'era da aspettare solo d'altronde. Abbiamo già perso tra onde, parlume, paraonde. Tutte le nostre domande senza curarci del seguito. E sorrendo l'ultimo gemito e facendolo di proposito. Figlio di un secolo breve e malato, studiato tutto con nulla. Il caso in tal caso non è nulla. Sospesso, sospinto, ora sempre in un dubbio interiore. Ma qui tutto decade con le mie teorie e le industrie del terrore. Anomali, speranze, latenze, finanze, saccenze. E quante altre assenze nei miei quaderni di doglianze. Porto alla ricerca dei miei demoni, sotto cosce egemoni. Ma mi sa, con problema con le priorità. Mezze verità da te, l'altra mezza conservate recitate come novità. Qualche delle volte riconosco il vuoto delle scelte, ma tutto semplicemente il più delle volte. Tutte le altre restano significative, prerogative alle quali non so pormi. Non so più abituarmi, non so, non so. Non so più abituarmi, non so, non so. Non so più abituarmi, non so, non so. Non so più abituarmi, non so, non so. Bisogno di gente che non sa più uscire, attimi di luce prima di partire. Bande che non vogliono lasciarci andare, scappare dalle menti prima di impazzire. Bisogno di gente che non sa più uscire, attimi di luce prima di partire. Bande che non vogliono lasciarci andare, scappare dalle menti prima di impazzire.